in primo piano. Grazie, buongiorno, sono di nuovo Lucia Annunziata. I giornali di oggi sono nelle loro aperture prevedibili: Sardegna, Sardegna, Sardegna e soprattutto la strepitosa vittoria in Sardegna di Berlusconi e di Cappellacci. Cappellacci chi? Si diceva fino a poco tempo fa, e in realtà l'uomo ha avuto una vittoria anche personale molto forte. 9 punti a questo punto sotto Renato Soru, grande sconfitta dunque della sinistra, ce ne occuperemo. La pagina politica, diciamo, è piena anche di piccoli intersezioni, no? C'è dentro la vittoria della PDL, c'è il balzo in avanti dell'UDC, c'è invece anche da riflettere, i giornali riflettono sulla pagina politica, sulla vittoria di Renzi, il giovane di cui avevamo parlato ieri, che ha vinto l'outsider, che ha vinto le primarie per Firenze. Altri argomenti: intercettazioni, un altro grandissimo argomento, perché è stato reintrodotto ieri alla commissione della Camera. Sono stati reintrodotti ben 2 emendamenti che già erano stati bocciati nella prima versione. Ronde, un argomento interessante, e poi un'altra serie di cose che vi lascio nella seconda parte, così mi ascoltate. Benissimo, andiamo allora ai commenti sulla Sardegna. La Corriere della Sera dice: Sardegna, la vittoria di Berlusconi, interessante, è come la Repubblica. In Sardegna vince il PDL, Soru sconfitto, cede il PD. Quindi la Repubblica anche ha fatto un interessante titolo. Terzo titolo interessante che scelgo per voi è quello dell'Unità. Come sapete, Soru è anche l'editore dell'Unità. L'Unità sceglie un titolo catastrofista. Non ha perso né il PD né né Soru per l'Unità, ma, come dice il titolo, ha perso la Sardegna, la regione va a destra. Dunque, naturalmente i giornali di destra su questo, di centrodestra, sono molto più, come dire, il giornale, sono molto più esaltati da questa vittoria. Giustamente il giornale dice, ad esempio, ne scelgo uno: Sardegna, colpo di grazia alla sinistra. Boom del centrodestra, il PD sconfitto nell'isola dove aveva una maggioranza schiacciante, Cappellacci a sorpresa sorpassa Soru, non mi aspettavo una vittoria di queste dimensioni. Allora, che cosa significa naturalmente questa sconfitta così drastica, peraltro che nessuno si aspettava, soprattutto in queste proporzioni, per il PD? Questo sembra essere oggi, diciamo, l'argomento centrale. Ve ne ho parlato, ne ho parlato io ieri, ne avete sentito ampiamente parlare, quindi non ripeto la questione di quanto contava questa battaglia come metro come misuramento misurazione della febbre tra i vari partiti. Mi limito a darvi 3 editoriali che sono importanti. Massimo Franco apre il Corriere con un titolo che dice: l'onda lunga. Dice esattamente: l'onda lunga è quella, naturalmente, del berlusconismo, continua, e gli indizi, peraltro, dice, mostrano un elettorato d'opposizione in lenta erosione e avviato a un voto europeo che si profila ogni giorno di più come una disfatta. Una delle interessanti notazioni che fa Massimo Franco è quella di dire: c'è una grandissima crisi economica e il paradosso, cito, è che le responsabilità non si scaricano sul governo ma sui suoi avversari. E ancora dice: il PD e il problema del PD e dei suoi alleati è la mancanza di un'analisi seria della vittoria berlusconiana del 13 e del 14 aprile del 2008. Il problema è se il centro-sinistra non abbia avuto il coraggio di farlo o se più banalmente non ne sia stato capace. Nel frattempo è stato sciupato un anno. Quindi, come vedete, da Massimo Franco, equilibrato osservatore della politica italiana, Franco si rifà alla crisi della sinistra. Interessante invece che Repubblica, con Massimo Giannini, editorialista anche lui, diciamo, di punta della Repubblica, invece continua a riproporre le vecchie analisi. La luna di miele tra il Premier e l'Italia non è affatto finito, dice Massimo Giannini da un fondo che è titolato La prova di forza del Cavaliere. E dice naturalmente tira fuori il fatto che c'è stata come sempre una vittoria del presenzialismo di Berlusconi e dei media, sottolinea sinceramente da questo punto di vista che i dati danno la conferma che il blocco sociale creato da Berlusconi è ormai strutturale e non più scalfibile in maniera velocissima. Dunque, un'analisi abbastanza tradizionale delle componenti della vittoria di Berlusconi, in compenso sincero l'affondo sull'analisi della sinistra, quello di Massimo Giannini, dice per il futuro del PD la sconfitta in Sardegna rischia di suonare come una doppia campana a morto, innanzitutto per Soru e poi per l'appunto per il PD. A questo punto chiede Giannini, ed è importante perché Repubblica è un giornale molto ascoltato all'interno del centro-sinistro del partito, un vero congresso. Da statuto, dice, è previsto dopo le europee, ma di questo passo c'è da chiedersi cosa resterà del PD dopo l'election day del prossimo giugno. Ieri ne avevamo parlato, Tonini, che è una delle grandi forze intellettuali, diciamo, dell'attuale PD, aveva lui stesso lanciato l'idea di anticipare il congresso. E qui e lì è questa l'idea che emerge dai giornali di oggi. Leggo anche l'editoriale di Concita De Gregorio. Come dicevo, il giornale è da pochi mesi nelle mani di Renato Soru. Come sapete, Renato Soru ha sempre detto di aver messo a posto il suo conflitto di interesse, nonostante alcuni ne dubitano. È interessante dunque cosa dice Concita De Gregorio. Ve lo leggo. Il tracollo catastrofico del centro-sinistra sardo, dentro il quale Renato Soru ha avuto un successo personale molto alto, di 4 punti la sua distanza dai cappellacci, di 14 quella tra gli scoramenti, racconta di un PD che ha scelto di uccidersi piuttosto che provare a esistere. Soru è stato battuto dallo strapotere mediatico ed economico del Premier. E rieccoci, ogni volta che la sinistra perde si grida contro lo strapotere mediatico economico. Un'offensiva senza precedenti che affonda nel burro di un'Italia indebolita allo stremo dalla lusinga perpetua della prepotenza del denaro e del disprezzo delle regole. Come dire, argomenti super vecchi, almeno dal mio punto di vista. Ma è rimasto vittima Soru anche della trappola del suo stesso partito. Ed ecco qui il direttore Concita De Gregorio che entra nel dibattito interno del PD. Quello che aveva apertamente sfidato e che nelle province rosse è arrivato ad esercitare il voto disgiunto contro di lui. Di nuovo siamo di qui, immagino che questo faccia riferimento alle battaglie interne che sotto sotto hanno lavorato contro Soru, anche questo mi sembra un vecchio approccio. Lei dice direttamente: una vendetta, uno sfregio che chi poteva non ha voluto o saputo evitare. Basta, ha detto il voto, a una sola cosa serve toccare il fondo quando non uccide, a risalire leggeri sulla terra leggeri. Moltissima retorica, ma argomenti, come dire, difensivi e soprattutto scarsa analisi dei cambiamenti in corso nel potere. Questo per quanto l'Unità stamattina. Sulle intercettazioni, invece, che è l'altro grande tema del giorno, vorrei citare un giornale non nazionale, ma sicuramente non minore, che è Il Secolo XIX, un ottimo giornale che tra l'altro, come dire, ha nelle sue mani l'apertura di Sanremo stasera e quindi che seguiremo probabilmente nei prossimi giorni, perché farà probabilmente una copertura molto dettagliata. E apre giustamente Il Secolo non sulla Sardegna ma sui nuovi emendamenti al DDL sulle intercettazioni. Il titolo è: proibito pubblicare i nomi dei magistrati, segreto sui processi Di Pietro, legge criminale. Brevemente, nel disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche il PDL ha votato in commissione alla Camera, come vi avevo detto, alcune modifiche, la più clamorosa delle quali è il divieto di pubblicare i nomi e le immagini dei magistrati impegnati in inchieste e processo. L'obiettivo è quello di far sì che il giudice abbia il volto del suo provvedimento e non viceversa. Poi c'è il secondo DDL, punito con il carcere chi pubblica intercettazioni telefoniche destinate alla distruzione. Se ricordate la settimana scorsa, diciamo almeno il carcere ai giornalisti era stato trovato un po' eccessivo, ma è ritornato. Si va verso una giustizia segreta e non controllabile dai cittadini, dice il PD, e Antonio Di Pietro sferra durissimo: questa è una legge ad alta valenza criminale. Vabbè, insomma, alta valenza criminale sono le iperboli di Pietro, ma insomma sicuramente preoccupante. Comunque la storia è ben lontana dall'essere finita. Un piccolo affondo su una figura che ieri è diventata improvvisamente celebre, il giovanissimo boy scout Matteo Renzi, che ha vinto ieri da totale outsider di tutti i partiti, sia del PD veltroniano, sia delle correnti dalemiane, tutte quelle che amiamo definire le varie identità del PD. Ha vinto a Firenze e oggi è il trionfatore di tutti i giornali, tutti entusiasti nei suoi confronti. Cito soltanto il titolo di una delle moltissime interviste che ha dato, in questo caso il Riformista: vinco nei quartieri rossi, con me il PD cambia pelle. Sapete a me che cosa stamattina mi sembrano queste interviste? A Roma si dice si consola con l'aglietto. Sì, c'è un po' questa idea che, come dire, tragica situazione del PD, ma in compenso tutti quanti si sono convertiti già alla speranza che la vittoria di un trentenne possa fare primavera. Abbiamo trattato quasi tutti gli argomenti della grande pagina politica e risultati elettorali. Abbiamo l'altro secondo argomento del giornale, ho detto, è le intercettazioni. Il terzo è la discussione sulle ronde, che è stato innescato dagli stupri, dall'ondata di stupri di questi, io non dico ondata perché, come sapete, i dati sono sempre una cosa un po' diversa a verificarli da quello che è l'emozione per alcuni di questi tragici fatti, quindi non posso dire che sia un'onda o la normalità. Detto questo, si discute sulle ronde soprattutto a partire dal fatto che, ve l'avevo detto già ieri, le ronde si stanno spostando a Roma, e se si spostano a Roma vuol dire che non c'entra niente questo con la base ideologica che gli potrebbe offrire questo o quell'altro partito nel nord. Ma mentre si discute del decreto sicurezza, su questo tema che apparentemente divide i due campi nettamente, sia il Corriere della Sera sia soprattutto il Giornale trovano una crepa nel discorso del centro-sinistra, ed è Achille Variati, che forse voi non ricorderete, è il primo cittadino di Vicenza, che si era schierato peraltro durante il governo Prodi con il No Global, in una stranissima alleanza tra moderatissimi come lui e No Global estremisti, all'opposizione della base del Dal Molin. Variati dice: io sindaco PD dico sì ai vigilantes, servono a dare sicurezza alla gente. Il primo cittadino di Vicenza promuove l'idea: noi siamo pronti a partire, se fatte in modo corretto sono utile, purché senza un marchio di partito. Questo sembra essere la base che le ronde su cui si forse una parte del PD o una parte dell'opposizione potrebbe cominciare a discutere di ronde. Le ronde non devono essere necessariamente un concetto militarizzato, dicono i giornali del centrodestra, anche alcuni ministri del centrodestra sono contrari. Le ronde potrebbero essere, si dice, veramente un'associazione di cittadini, magari appunto adulti, giovani, anche nonni e cose di questo tipo. Ne sentiremo ancora parlare. L'economia, la pagina forse più importante dell'economia è l'appello che ieri ha lanciato Montezemolo all'apertura dell'università LUIS, dell'anno accademico della LUIS, l'università privata romana. Il presidente della Fiat dice: economia, ora gli stati generali. Se ne occupa la Stampa, se ne occupa il Corriere, è un allarme, dice il Corriere, importantissimo, maggioranza maggioranza e opposizione con le parti sociali per forte decisione anticrisi. Parte dell'allarme è il fatto, come ha detto lui, che la crisi ancora non si è pienamente sentita e che nei prossimi mesi sarà drammatica. Uno dei dati oggi interessanti che vengono fuori da questo discorso è che l'Italia è talmente in crisi che si vendono più auto italiane in Germania che nell'Italia stessa. Infine, un'altra pagina economica e politica, mentre la politica ieri celebrava l'arrivo di Nancy Pelosi, che come solito è venuto qui a dire solite, insomma, come dire, affettuose ma banali verità sull'Italia, viva l'Italia, la patria di Amerigo Vespucci, eccetera, eccetera, in realtà c'è stata sotto c'è una tensione che coinvolge l'Italia e gli Stati Uniti, al di là delle discussioni generali. È una questione che ha a che fare con l'elicottero. L'elicottero, i quattro US 101, che sono della parte della commessa Finmeccanica, che dovrebbero trasportare Obama. Vi consiglio il consiglio sulla stampa che fa il migliore servizio a pagina 8 e 9, e costa tantissimo, il prezzo più che altro è aumentato continuamente perché hanno dovuto fare gli italiani una serie di modifiche per adeguare la sicurezza degli elicotteri, di questo elicottero italiano, ai bisogni incluso della Casa Bianca. A questo punto si è detto troppo caro l'elicottero per il presidente USA, c'è una polemica al congresso che rischia di mettere in discussione la commessa a Finmeccanica. Ora ricordiamo, la Finmeccanica è considerata, insieme a un altro paio di aziende, l'Eni e la Finmeccanica, parte dei gioielli della corona delle aziende più o meno statali. Grande ragione di orgoglio è sempre stata per la Finmeccanica proprio la sua capacità di vendere tecnologie proprio agli Stati Uniti. A gennaio 2005 Lockheed Martin e Finmeccanica vincono infatti una commessa da 6,5 miliardi di dollari. Agli USA 28 apparecchi entro il 2019, 5 dei quali già consegnati alla US Navy. È la crisi e Obama, sono le difficoltà degli italiani che si scaricano sui costi, ma insomma molto interessante, perché una frattura con la Finmeccanica sarebbe un vero affronto, ma anche una vera sconfitta appunto per lo gioiello italiano. Passiamo a altre cose che vi segnalo, perché sono tutte molto interessanti. Fini sul Sole 24 Ore scrive sul giornale del padrone di casa, vi segnalo la crisi, chance per l'Europa, la Costituzione dei Popoli. Gianfranco Fini, terza carica dello Stato, fa un intervento in cui dice l'Europa sembra aver in questo momento di crisi economica e politica accelerato la perdita, come dunque, di quel senso di identità europea che è indispensabile perché la stessa Unione possa rispondere alle sfide. E dunque dice Fini, quello che nella politica europea, quello che gli economisti dicono che è l'Europa, può essere, la crisi può essere per l'Europa una ragione di rilancio piuttosto che di crisi. Ho ancora solo un minuto. Vi consiglio sul Foglio la presentazione di un libro, intervista a uno lefevriano, Monsignor Bernard Fellay, che è un libro molto interessante, ve lo do, Tradizione, il vero volto, chi sono e cosa pensano gli eredi di Lefebvre, scritto da Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro, scrittori cattolici. Invece vi segnalo che stasera ancora comincia Bonolis, comincia il festival, divertitevi con tutte le pagine sul festival, eccetera. Due ultime segnalazioni che riguardano due donne. La Repubblica ci dice che la Ferilli, l'attrice romana, ha mandato una lettera aperta a Walter Veltroni, arrabbiatissima perché Katia Belillo, che aveva parlato male di lei, è stata salvata per l'immunità concessa, e approfitta Sabina Ferilli per criticare il PD. E infine l'eterno ritorno di Daniela Martani, la la, come si chiama, la hostess, che oggi parla sul giornale, mi pare, ma su questo dovete scusarmi perché non mi ricordo dov'è, forse di un complotto contro di lei. Come si dice, la trama si fa sempre più oscura. A domani.